Cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Dalla musica potete capire che non si tratta di un romanzo sereno e tranquillo, ma molto probabilmente, anzi sicuramente, si tratta di un thriller psicologico. E questo è la musica che accompagna il book trailer dell'ultimo romanzo di Donato Carrisi, che si intitola La ragazza nella nebbia, pubblicato da Longanesi. Carrisi, lo sappiamo, è uno dei forse thrilleristi italiani più conosciuti al mondo. Un titolo per tutti, il suo primo titolo che ha avuto veramente un successo internazionale, Il suggeritore, era il 2009. Poi c'è stato Il tribunale delle anime, L'ipotesi del male, Il cacciatore del buio. Insomma, ogni volta che esce un libro nuovo di Donato Carrisi, noi lo ospitiamo molto molto volentieri al Cacciatore di libri. Devo dire, Donato, che questa volta mi sono veramente molto appassionata al tuo romanzo. Io lo dico sempre pubblicamente ai nostri ascoltatori che io sono una fifona, fondamentalmente, quindi quando ci sono delle scene un po' troppo pulp ho paura. In questo caso invece non ci sono delle scene particolarmente forti, è come se tutto si svolgesse nella mente del lettore, dei personaggi, con un continuo rimando fra personaggio e lettore, forse anche scrittore. Era questo il tuo obiettivo? Ma guarda, perché tu ancora non sei arrivato al finale. Io non leggo mai il finale dei gialli quando faccio le interviste. Vedi, è tutto concentrato nel finale, nel senso che poi è tutta una preparazione per i colpi di scena finali. Stavolta io sono partito proprio dalla fine. È stato un lavoro fatto a ritroso ed è stato pensato appunto al contrario, questo libro scritto al contrario. Ecco, facciamo capire ai nostri ascoltatori, l'incipit secondo me è una delle cose più belle di questo romanzo. Appunto, devo leggere ancora la fine, però devo dire che l'incipit è potentissimo. In realtà è il finalissimo, l'incipit, cioè comincia proprio col finalissimo, nel senso che c'è stato un incidente stradale in questo paesino che si chiama Vechaux, che si trova nelle Alpi, un paesino del tutto immaginario ma molto simile a tanti paesi alpini. Questo incidente stradale in una notte di nebbia, già la nebbia comincia a uscire dalle vostre radio, scivola fuori dagli altoparlanti, e questo incidente è coinvolto un poliziotto che si chiama Vogel, che è il protagonista del romanzo. Che non è un poliziotto qualsiasi. Che non è un poliziotto qualsiasi. È avvenuto 2 mesi dopo i fatti raccontati nel romanzo. Vogel non dovrebbe più essere ad Avechaux perché il caso si è concluso. Invece si trova lì in questa notte di nebbia, ha avuto questo incidente, viaggiava da solo, soprattutto è incolume. Però i suoi vestiti sono sporchi di sangue. E quindi bisogna capire perché i suoi vestiti sono sporchi di sangue. Infatti nel momento in cui lui viene portato insomma in ospedale, a un certo punto c'è lo psichiatra che deve fare insomma una sorta di consulenza, dice: allora mi spieghi una cosa, se lei è incolume, a chi appartiene il sangue che c'è sui suoi vestiti? Da qui inizia il primo giallo che ci porta ad un altro giallo, perché il protagonista, questo Vogel, questo agente speciale, possiamo chiamarlo così, in realtà stava seguendo alcune settimane prima, nel periodo diciamo di Natale, in periodo di dicembre, il caso di una ragazzina, Anna Lu, scomparsa. Ma Vogel ha una caratteristica particolare, quella di rendere ogni caso che lui segue un caso particolarmente mediatico. Ma come fa a farlo e perché lo fa? Ma sai, a Vogel non interessano cose come la polizia scientifica, il DNA, le impronte digitali, non gliene frega niente, perché lui riesce a risolvere i casi servendosi dei media. Ora, questa è una figura sui generis da un punto di vista letterario, però forse molto simile alla realtà. Perché ormai tutte le indagini si conducono attraverso i media, si crea questa specie di circolo vizioso per cui l'opinione pubblica viene stimolata dai media, a sua volta stimola i media che poi pressano gli inquirenti per arrivare ad una soluzione del caso. È quello che vediamo accadere puntualmente. Ma è vero, come tu racconti nel romanzo, che poi alla fine i casi che, sui quali c'è più attenzione del pubblico ricevono anche più, come dire, finanziamenti per portare avanti le indagini e andare a fondo sulla questione? Ma è vero, guarda un po' la realtà. Il caso di Sara Scazzi, che è esploso 20 giorni dopo la scomparsa della povera ragazzina. All'inizio era trascurato dai media, poi improvvisamente si sono interessati tutti e l'indagine è cominciata ufficialmente. 3 mesi dopo, anche approfittando appunto dello sciame mediatico generato dal caso di Avetrana, quando è scomparsa Yara Gambirasio, invece immediatamente grandi risorse, cani molecolari, le squadre di ricerca, grandi errori nella gestione dell'indagine, perché fu arrestato all'inizio il marocchino per una falsa interpretazione, insomma, di una telefonata con un'impresa spettacolare, con la nave bloccata. Quella sì, che sì, sì, come no, ce lo ricordiamo la vicenda. Questa cosa terribile, poi il cadavere ritrovato a 300 metri dal luogo da cui venivano coordinate le ricerche, poi l'indagine sul DNA che è costata milioni di euro ai contribuenti. Ora, questa non vuole essere una difesa di Bossetti, perché Bossetti dovrà essere giudicato, come certo, come ovvio, da un tribunale, ma ci dobbiamo anche domandare, dopo aver speso tutti questi soldi, dopo tutte queste brutte figure, ci possiamo permettere un colpevole diverso da Bossetti? E questa è la grande domanda. E è la domanda in fondo che tu poni con questo romanzo, no? Perché Vogel mette sempre su un circo mediatico intorno ai casi che segue, così fa avere più finanziamenti alle sue indagini, si mette in mostra, insomma, è un manipolatore. Ma crea proprio uno spettacolo, lui attribuisce i ruoli, santifica la vittima, perché la vittima è sempre santa. Sì, certo. E trova un mostro, e il lettore dovrà chiedersi, da un certo punto del romanzo in poi, se il mostro individuato è realmente il mostro, oppure se è stato costruito apposta dai media. Beh, io ho pensato molto alle varie trasmissioni del primo pomeriggio, diciamo, quelle che sono concentrate sulla trasmissione televisiva, che sono concentrate sulla cronaca, che a volte veramente vanno a scavare nei particolari più assurdi della vita delle persone, e a volte i parenti delle vittime sono loro stessi che si mettono serenamente, dico serenamente fra virgolette, davanti a una telecamera. Alcuni a raccontare. Si fanno pagare, diciamo la verità. Sì, c'è un mercato intorno a tutto questo, ma c'è anche un indotto, perché oltre alle spese dell'indagine, i network quanto ci guadagnano? Cioè, coprono l'evento utilizzando risorse minime, cioè mandando un inviato e una troupe. Che tu lo scrivi proprio nel romanzo a un certo punto, basta un inviato, una telecamera e un cameraman. Ma fanno i programmi del mattino, quelli del pomeriggio, l'approfondimento serale, è una specie di fiction che non costa. E la piccola comunità ci guadagna, perché poi ci sono i turisti dell'orrore, chiamiamoli così. È chiaro, perché si riversano lì non soltanto i cronisti, i cameraman, i reporter, ma anche i turisti della domenica, quelli che vogliono toccare con mano appunto i luoghi visti in televisione, e si arricchiscono i venditori di souvenir, i ristoratori, gli albergatori. Un po' come andare in pellegrinaggio da Padre Pio, ecco, è un po' la stessa cosa. Tu a un certo punto però scrivi: nessuno era in grado di spiegare perché un crimine diventava improvvisamente più popolare di altri, ma erano tutti concordi che esistesse un elemento imponderabile. Ora, tu hai fatto studi giuridici, hai fatto una tesi in criminologia, quindi insomma, oltre a essere un autore di thriller, come dire, hai studiato la materia. Ti sei dato un po' una risposta? Perché ci deve essere sempre un Vogel dietro le quinte a organizzare il caso, o a volte la sensibilità della gente? Beh, in questo caso Vogel organizza benissimo lo spettacolo, lo mette su. In realtà non c'è una formula precisa. Avviene un crimine ogni 6 secondi, 6-7 secondi in Italia. Alcuni sono fatti di sangue, alcuni assurgono all'onore delle cronache, altri no. Alcuni ricevono fiumi e fiumi di inchiostro, altri no. E da che cosa dipende? I criminologi, questo elemento imponderabile, lo definiscono la variabile dell'assassino. Poteva anche essere il titolo del romanzo, se vogliamo. La variabile dell'assassino è che appunto non si capisce mai qual è, perché alcuni fatti di sangue sono veramente clamorosi, eppure la gente non gliene frega niente, insomma. E altri sono di una banalità incredibile. E la gente invece si appassiona, diciamo così. Tornando proprio nello specifico alla trama della ragazza nella nebbia, tutto si svolge appunto in questo paesino delle Alpi, che io non sono riuscita a capire se sono Alpi italiane, svizzere, francesi, insomma, non si capisce bene dove si svolge, e l'avrei fatta apposta, immagino. Ma sì, ma assolutamente. Come al solito, i miei libri sono labirinti. Per sono cui dei si labirinti entra, geografici anche. Si entra, non si sa quando si esce, perché sennò è troppo facile, insomma, anche per il lettore. Giusto, giustissimo. Man mano che l'indagine va avanti, si scoprono naturalmente tante piccole verità, poi, come dicevi giustamente tu, solo alla fine si scoprirà la vera verità, il caso clamoroso, si avranno le risposte alle tante domande, però già si inizia a capire che il padre della ragazzina scomparsa ha qualcosa che vuole dire e poi dice a metà, ha qualche segreto anche lui. Priscilla, l'amica di Anna Lu, ha qualcosa anche lei da nascondere. C'è un ragazzino che segue, sembra essere innamorato di questa ragazza. Insomma, parecchie persone in questa piccola comunità molto religiosa in realtà sembrano avere dei segreti, non sono poi così santi. Lei stessa, la vittima, forse ha scritto questo diario più per la madre che non per raccontare veramente la sua vita. Sì, perché si scopre questo diario. Ma qual è il tuo segreto, Alessandra? Il mio segreto? Io ne ho parecchi di segreti, Donato Carrisi. Tutti abbiamo dei segreti. Alcuni sono assolutamente inconfessabili perché riteniamo noi che siano inconfessabili. Altri lo sono per gli altri, nel senso che la gente non ce li perdonerebbe determinati segreti. Ma tutti abbiamo una doppia vita, tutti abbiamo qualcosa da nascondere, un peccato piccolo o grande. Chiaramente quando scoppia un caso clamoroso come questo, i peccati diventano macroscopici perché diventano di dominio pubblico, non sono più perdonabili. Insomma, se muore la moglie di un marito adultero, non faccio riferimento al caso specifico che sto citando, ovviamente il fatto che quel marito fosse adultero lo trasforma automaticamente in un mostro. Certo. I nostri peccatucci diventano un motivo per farci odiare in certe circostanze. Dobbiamo stare molto attenti perché è molto facile incappare nelle maglie della giustizia e finire stritolati in questo sistema mediatico in cui il pubblico anticipa la sentenza, tant'è che certo, al pubblico del processo non frega niente, cioè l'audience sale finché dura l'indagine, perlomeno certo, in Italia dove non c'è un processo spettacolare come negli Stati Uniti, crolla al momento dell'inizio del processo, che è quello che dovrebbe interessarci di più, per poi risalire al momento della sentenza, quando tutti vogliamo sapere ma c'avevo ragione oppure no. È vero che dalla ragazza nella nebbia sarà tratto un film, addirittura che tu sarai il regista, così leggevo da qualche parte. Pettegolezzi oppure? No, è vero che dal film è stato tratto il romanzo, nel senso che è nata prima la sceneggiatura, un po' come per Il Suggeritore. Ah, ecco. È nata prima la sceneggiatura che io poi ho trasformato in un romanzo, infatti è un romanzo molto visivo. Anche, è molto cinematografico. Anche per molto. Questo. Sì, lo dirigo io e cominciamo a girare tra qualche tempo e spero che l'effetto sia quello che sta riscontrando il pubblico dei lettori leggendo il libro. Io devo dire, ho detto, sono stata colpita subito dall'incipit, poi è un romanzo che ha un grandissimo ritmo perché ci sono anche dei passaggi temporali avanti, dietro, eccetera, si ricostruisce i giorni precedenti la scomparsa della ragazzina, i giorni successivi, insomma, quindi ormai hai acquisito, come dire, una tecnica narrativa ben precisa per tenere incollato il lettore. C'è qualcosa di malefico ad Avesciò, si nasconde qualcosa di malefico tra quelle montagne, in questa piccola comunità che pensa che di essere protetta soltanto perché è ristretta, perché tutti conoscono tutti, e pensa sempre pensa sempre che il male debba venire da fuori, e invece l'ha covato lì, l'ha tenuto al caldo, no? C'è stata questa specie di incubazione del male in questa valle tranquilla. Spesso si conosce. In mezzo alle montagne. Già questo, come vedi, è un modo per portare il lettore all'interno della storia. Ecco, io rimango adesso così incantata a guardare Donato Carrisi, soprattutto non vedo l'ora di leggere la fine, perché sul serio, quando intervisto gli autori che hanno scritto dei thriller, non leggo mai le ultime 40-50 pagine, proprio per non avere, come dire, la sensazione di fare l'ansia anche di fare delle domande magari sul finale, quindi spero che il tuo finale non mi deluda. Ma lo spero anch'io, ma non ti aspettare un unico finale. Non mi aspetterò un unico finale. Grazie Donato Carrisi, ora in libreria con La ragazza nella nebbia, pubblicato come tutti i suoi romanzi da Longanesi. Una breve pausa, poi parleremo ancora di libri. Il cacciatore di libri. Spesso nella vita gli scrittori arrivano a pubblicare un libro sul padre o sulla madre. Qualche anno fa era scoppiata la moda dei libri sui padri, ora stanno tornando le madri, insomma è un tema che si presenta ciclicamente. Parla del padre l'ultimo romanzo di Romana Petri, Le serenate del ciclone, pubblicato da Neri Pozza. È una storia in parte vera e in parte immaginata dalla figlia, per la quale il padre ha sempre comunque avuto un'immagine pubblica oltre che quella privata. E questo perché Mario Petri, detto appunto il ciclone, era un famoso cantante lirico. Per uno scrittore il romanzo su uno dei genitori può essere una sorta di resa dei conti oppure un grande atto di amore. Sentiamo cos'è stato per Romana Petri. Mio padre è morto 30 anni fa. La sua presenza nei miei libri è entrata molto spesso. Però scrivere un libro intero, come ho scritto anche nell'epilogo finale, ci ho messo 25 anni prima di cominciarlo. E l'ho cominciato nel momento in cui la sua assenza e la sua mancanza mi sono diventati più sopportabili da un lato e più insopportabili da un altro. Nel senso che la mutilazione non sanguinava più, però mancava l'arto lo stesso. E non era un libro, come generalmente ne ho letti tanti di libri sui padri, sulle madri, sono quasi sempre degli aggiustamenti di conti. Io non avevo conti in sospeso con quest'uomo, avevo l'incanto di questa persona. Io sono sicura che se ho fatto questo mestiere è stato per lui, per come ha stimolato la mia fantasia. Perché avere dentro casa un padre che fa il Don Giovanni, che fa il guerriero nel cinema, film di cappa e spada, che fa, non so, il Dottor Faust e poi che fa Macbeth. Insomma, io ho visto sempre un eroe da bambina, no? Io quando da bambina, molto piccola, scrivevo delle poesie, non me le ricordo, però ricordo che una comincia così: mio padre è un eroe, virgola, fa la guerra. Ma c'è sempre, come dire, una differenza fra l'immagine pubblica di questi padri e poi come li vedono i figli, nel tuo caso specifico, come l'hai visto tu? Beh, io devo dire che sono stata molto influenzata anche da quello che lui faceva, anche perché mio padre mi ha sempre tenuta molto al corrente. Io ero piccola, avevo 2-3 anni, stavo dietro le quinte dei teatri a tenergli la Coca-Cola, perché quando lui usciva da una romanza e l'altra si faceva una sgargorazzatina di Coca-Cola fresca per rimettere un po' a posto le corde vocali, e io c'ero. Quando faceva il cinema io stavo sul set, quindi c'è stata molta mescolanza. Diciamo che ci sono padri le cui vite sono già veramente dei romanzi, indipendentemente dai figli come li vedono. Sicuramente lui era proprio un personaggio da romanzo. Intanto era un uomo enorme, come si può vedere dall'immagine di copertina dove siamo noi due. Era un atleta, era un uomo che ha fatto sport tutta la vita. A 17 anni è scappato di casa per studiare canto e per pagarsi le lezioni faceva il pugile. Pugile proprio con incontri a pagamento, poi cantava le canzonette nei night e faceva il modello per le pittori e pittrici di via Margutta. Quindi ha avuto tutto, ha avuto una vita molto avventurosa. La prima parte del romanzo, che io non conosco perché non c'ero, però è come se mi fosse entrata dentro. Sai quando le cose ti stanno nelle entragne proprio, che te le senti nelle trippe, perché io vivevo tutto quello che lui mi raccontava in forma veramente di grande passione. Se però pensi che per la notte, per farmi addormentare, lui mi raccontava, mi leggeva e mi commentava l'Iliade, e una volta invece mi ha raccontato tutta l'Odissea portandomi sulle spalle mentre nuotava a largo al mare. Non sono cose che non possono lasciarti una traccia. Questo però non è solo un memoir, perché c'è anche una parte che hai immaginato. Tanto. Come ti sei sentita, ecco, a immaginare la vita di tuo padre? Ecco, era quello che volevo, nel senso che questa assenza così pesante che io ho sentito, c'è stato un desiderio che già c'era in vita, perché io mi sono sentita anche un po' sua madre in certi momenti, perché lui era grande e grosso ma aveva un temperamento molto delicato. È stato un ripartorirlo, me lo sono rimesso al mondo io. Quando il libro comincia con la mia nonna Terzilia che ha le doglie, ma quelle doglie sono state quelle che ho avuto io per mettere al mondo mio figlio. Quindi ho mescolato questa nascita, che non potevo assolutamente sapere come fosse avvenuta, ma no, la mia nonna Terzilia lo ha partorito così come io ho partorito mio figlio. E non è un caso che io ho voluto partorire mio figlio nell'ospedale dove mio padre è morto. Perché mio padre, quando ero bambina, mi raccontava sempre che i capi Lakota facevano nascere i figli dove era morto un guerriero. Mia madre si era messa le mani nei capelli, mi ha detto: ma no, ma partorisci da qualsiasi altra parte, ma perché vuoi partorire proprio dove papà è morto? E invece io l'ho fatto proprio nascere lì, e il mio parto poi l'ho messo nella pancia di mia nonna, ma in realtà io è come se lo avessi tirato fuori da proprio dai miei visceri questo padre. Fin dall'inizio di questa intervista si capisce che tu parli di tuo padre in modo molto intenso, parli ancora di una ferita in parte accettata, ma in parte ancora molto, molto aperta. La nostra generazione, diciamo, chi ha superato i 40, ci consideriamo adulti orfani, cosa che forse prima non succedeva, era più nelle cose. E appunto è una questione generazionale o nel momento in cui si perde un genitore, a qualsiasi età si diventa orfani? Beh, io credo che quando si perde un genitore molto anziano ci sia un'accettazione maggiore, nel senso che uno si può sentire orfano pure a 70 anni. Però c'è comunque quella domanda che ti fai e ti rispondi, che dici: quanto poteva vivere ancora? Ha vissuto tanto, cioè se perdi un padre, oggi mio padre avrebbe 93 anni, se morisse adesso sicuramente mi darebbe un dolore atroce, ma non mi seccherebbe la psiche fino alla fine dei miei giorni, perché io l'ho perso in 3 ore e mio padre è anche morto di una morte improvvisa, quindi non c'è stato neanche quello scarto di dover dire: ecco, ti abitui all'idea, che poi non ci si abitua mai l'idea. Io credo che la nostra generazione accetti molto poco la morte. Pensiamo al fatto che oggi c'è questo ossimoro grandissimo, no? Vogliamo tutti vivere a lungo, ma nessuno vuole invecchiare. Come si fa a vivere a lungo senza invecchiare? C'è un rifiuto, quindi, non solo della morte come tale, ma anche della morte della giovinezza. L'aver raccontato tuo padre, l'aver anche fatto fiction su quella che sarebbe potuta essere la vita di tuo padre, forse è stata così, forse no, insomma l'aver inventato anche delle cose, come scrittrice ti ha messo inevitabilmente a nudo con i tuoi lettori, no? Nel senso che avrai avuto dei momenti in cui, non so, ti sarei posta il dubbio: ma questa cosa la racconto, questa no, questa è troppo intima, questo lui non l'avrebbe gradito. Ti sei fatta queste domande o sei stata serena? Sono stata molto serena, devo dire la verità. Credo che tutto quello che ho raccontato nulla gli avrebbe fatto male, anzi sarebbe molto divertito, perché appunto è un gesto di amore che ho fatto nei suoi confronti. Diciamo che se qualche cosa ho tolto raggiungere in positivo, ma mai in negativo. E questa è la Romana Petri, ora in libreria con Le serenate del ciclone, pubblicato da Neri Pozza. Grazie in regia Filippo Aureggi. Vi ricordo che come sempre trovate tutte le puntate su podcast. Se non avete fatto in tempo a scrivere e a segnare i titoli di questi libri, potete ritrovarli sulla pagina Facebook del Cacciatore di Libri e su Twitter. Come sempre da Alessandra Tedesco, una buona lettura a tutti.